Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Spendono per togliere i sassi a luna nel cielo. Questi prendono, vanno, tornano, non fanno niente, solo un volo. Noi qua giù ci spraniamo, gridiamo, ti amo, e chi la sente, la povera gente. Gente! Era molto tempo che volevo giocare nel Milan. Poi ovviamente giocavo in altre squadre, quindi non potevo venire qua, però adesso ho avuto la possibilità e sono corso. Guarda, ho cominciato questa stagione non molto bene col City e vengo qua per rifarmi e fare bene. Qui dai nostri tifosi, che coro vorresti ti facesse? Milano è inondata da Balotelli, ce l'abbiamo noi. Basta che mi vogliono bene e io riesco a ricambiare, sono a posto. Hai capito la canzone? Sabato come questo del magazine di Tutti Convocati non si poteva che partire da qui, no? Dal fatto della settimana che ha fatto impazzire un po' tutti. E non potevamo che convocare il nostro amico avvocato e procuratore, cui si deve, tra l'altro, quella Juventus deve il passaggio di Anelka in bianco nero che poi ci facciamo raccontare. Fabrizio Ferrari, buonasera. Buonasera a tutti. Beh, quando hai cominciato a pensare che Balotelli sarebbe davvero andato al Milan? Da quando è partito all'Inter. Sì? Sì. No, ma adesso? No, io credo che fosse un lungo amore che inevitabilmente doveva concludersi bene. Ora, nonostante Gagliani avesse detto che non tutti gli amori vanno a buon fine. Vabbè. No, non ci si può credere a queste dichiarazioni di Gagliani. Io credo che quest'anno fosse l'anno buono per fare questo trasferimento e Gagliani, come al solito, grandissimo manager, è riuscito a portarlo a buon fine. Sì. Non c'erano le condizioni giuste, cioè il City ha giocato quasi sempre senza di lui, giocando sempre abbastanza bene, e probabilmente ha capito che anche senza Balotelli poteva puntare ad arrivare nei primi posti, quindi per la Champions League, e quindi insomma anche il litigio con Mancini, tutti i problemi che ci sono stati probabilmente hanno avuto un'influenza nella cessione. Ma dicono tutti una trattativa iniziata quest'estate dopo che è partito Ibrahimovic. Sicuramente sì. Non roba dell'ultima ora. No, il Milan non fa mai robe dell'ultima ora. Difficile che faccia trattative iperveloci in cui decidono di prendere un grande campione così. Solitamente sono dei corteggiamenti piuttosto lunghi che poi dopo trovano una ragione nelle peripezie economiche, nelle fantasie di Gagliani nel cercare una soluzione tra prestiti, obblighi di riscatto, pagamenti in 6 rate. Sì. Bravissimo, niente da dire. Ma bravissimo, anche perché insomma l'ha portato a casa per 4 milioni e poi l'anno prossimo altri 4, così per 5 anni, però 5 anni fanno in tempo, come dicevo l'altro giorno, a realizzarsi con ritardo le profezie dei Maya, a cadere 8 governi. Può succedere di tutto. Può succedere un sacco di cose. Magari fra 4 anni Balotelli ne può valere 150 di milioni. A proposito, come andrà secondo te al Milan? Andrà bene. Perché? Andrà bene perché il giocatore è perfetto per questo modulo, perché già in nazionale, in una partita mediocre come quella con la Francia, aveva fatto intravedere una possibilità di intesa con El Shaarawy, secondo me, molto importante e molto divertente. Sì, con la testa come la mettiamo? Con le viti da stringere per uno svitato come Balotelli? Io dico la mia, che ho già ripetuto anche troppe volte, cioè responsabilizzato da un posto da titolare, secondo me la dico grossa, l'intelligenza sufficiente per gestire questa grande occasione, senza dover continuamente passare per la tribuna, per la panchina, per i litigi, per le bizzarrie, eccetera eccetera. Giocherà Balotelli più El Shaarawy più altri 9 e poi avrà tanta responsabilità, ma forse è l'unico modo per responsabilizzarlo. Ma secondo me dici bene, nel senso che io sono convinto che un posto da titolare veramente gli possa dare quel qualcosa in più che non ha avuto fino adesso in nessuna squadra dove è andato. E poi probabilmente le bizzarrie, le Bentley camouflage piuttosto che i party li farà lo stesso, ma è Balotelli. Sì. Cioè, bisogna accettarlo anche per com'è come ragazzo, non solo come giocatore. No, ma lo accettiamo volentieri anche come personaggio. Un sì. Personaggio di cui il calcio italiano, il calcio in generale, ha bisogno. Tabloid inglesi disperati per. A me fa anche molto divertire, devo dire la verità. È chiaro che finché rientra in un certo ambito e si limita, è anche molto divertente come personaggio. Mi piace molto. Sì, non c'è dubbio. Ma anche in chiave azzurra, ne parlavamo in settimana. Insomma, chi non è interista, perché gli interisti rosicano tutti e non mi vengano a dire il contrario. No, è verissimo. Perché sennò è una bugia. Ed è per questo che l'arrivo di Balotelli è stato non quello dell'arrivo di un giocatore di calcio, ma di una rockstar di primo piano. Insomma, a parte gli interisti e gli juventini che a un certo punto, o i napoletani che hanno cullato il sogno di averlo, sì, insomma... I napoletani forse un anno fa ci hanno provato, ma era veramente molto complicata. Era veramente molto complicata in quel momento. E comunque credo che sia nell'interesse di tutti. Innanzitutto vedere un giocatore divertente, un grande giocatore, il più grande talento del calcio italiano, tornare, giocare con il possibile compagno d'attacco in nazionale, giocare con continuità, credo che uno dei più felici sia proprio Maledetto, sia proprio Prandelli. Secondo me con Osvaldo è nettamente il miglior attaccante che abbiamo. Quindi al di là del fatto che Osvaldo è argentino, naturalizzato, eccetera, però insomma sono due giocatori di talento straordinario e riaverlo in Italia per me è un grande successo anche a livello mediatico per il campionato italiano, che veramente stava passando un brutto momento mediatico. Quindi secondo me abbiamo fatto un passo in avanti anche come spettacolarizzazione del nostro campionato. Sì, anche se mio orario ho subito esagerato, no? Vabbè. Campionato inglese, mio idolo, Fa parte del personaggio anche di Mino, che è un grande manager e che... Campionato italiano vale 50% in più, quello inglese 50% in meno, adesso tratto i diritti televisivi e poi mi date ovviamente... La percentuale. Mi date la mezza, eh? Vabbè, lui è molto bravo anche nel dare questo sapore a ogni trasferimento che fa, molto divertente nelle sue dichiarazioni. Però è vero che i tabloid hanno vissuto gli ultimi due anni soprattutto praticamente nel calcio solo con Balotelli. Prima c'erano le magagne sentimentali dei vari giocatori inglesi, quest'anno veramente solo Balotelli. Sì. Indovina chi sono il gatto e la volpe. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per... Allora, Fabrizio Ferrari, hai avuto tempo per pensarci. Una è un tuo collega procuratore, l'altro è uno con cui ogni tanto hai a che fare. Chi sono il gatto e la volpe? Beh, insomma, le prime ipotesi sono Galliani e Raiola. Hai indovinato subito. Sentiamoli. Beh, credo che non ci sia bisogno di presentare Mario Balotelli. È un sogno che si realizza, un sogno che volevano i nostri tifosi, che ha voluto il presidente Berlusconi fortemente, che ha voluto tutta la società. Pensiamo che con l'arrivo di Mario rafforziamo molto la nostra squadra e siamo felici, ci abbiamo lavorato tanto perché Mario è nei nostri cuori da tanti anni e finalmente ci siamo riusciti. Ecco le pagelle anche di Mino Raiola, vieni anche Mino Raiola insieme con Davide Lippi, vieni, quindi qua abbiamo doppie pagelle, guardate che fare, salottino, ecco. Nero, che succede? Non si può fare un calcio mercato in questo albergo di merda. Questa l'hai sentita, no? Sì, io ero andato via da qualche minuto. Eri andato via da qualche minuto. Sì. Furibondo Mino Raiola, perché non funziona internet, non funzionano gli ascensori. Guarda, devo dire che Mino comunque in parte ha ragione, nel senso che la struttura della registrazione dei contratti, un po' per questa nostra tradizione di voler fare per forza le cose all'ultimo minuto, non è i poverini, non è né l'albergo né le persone che ci lavorano, quanto il fatto che ci sono troppe persone e che si può imballare internet, i telefoni non funzionano più, ti posso assicurare dalle 5 di pomeriggio è un disastro perché non c'è la linea intasatissima, ci sono un miliardo di persone in coda che aspettano di registrare e quindi può saltare un trasferimento come è saltato a me e come in questo caso è saltata a Mino Raiola, insomma, come sono saltate tante volte, fino a Pastorello che lancia sì, il famoso contratto al di là della di Milito, porta. Quella che è la scena che ricordiamo tutti. Fabrizio, invece, raccontaci di Anelka alla Juventus. Ma un'operazione secondo me intelligente, perché è un giocatore che intanto viene senza transfer perché ha risolto il suo contratto con Shanghai Shenhua e per cui viene a parametro zero. È un giocatore che viene con un contratto di 5 mesi più una sorta di opzione libera, per quindi una stretta di mano, un gentleman agreement di rivedersi a fine maggio per capire se c'è la possibilità di continuare questo rapporto. E soprattutto è un giocatore che viene con tantissima voglia di dimostrarsi ancora molto valido in un campionato nuovo per lui. Molto valido come è stato a tratti nella sua carriera, perché anche lui, a proposito di svitati, no? Cioè carattere ondivago, giocatore ondivago, in alcuni momenti dicevi questo è una superstar, o quando era molto giovane diventerà una superstar, in altri momenti l'avresti preso, qualcuno l'ha preso a calci nel sedere. Quindi è un giocatore senz'altro di talento, senz'altro di esperienza, quanto all'affidabilità e alla continuità, vediamo. Sì, però devo dire la verità, secondo me, come si dice, un po' si è messo di buzzo buono, perché ho capito che, da quello che mi dicono, insomma, nell'ambiente juventino si sta allenando fortissimo, sta molto bene fisicamente già adesso, e quindi stiamo a vedere le prime partite, diamogli insomma credo 2 settimane di tempo per essere seriamente pronto e vediamo come sta, vediamo come va, vediamo come si integra all'interno dell'attacco juventino, perché poi insomma la Juve ha tanti attaccanti, bisogna vedere con chi farlo giocare, come farlo giocare. A fianco di chi? Beh, Vucinic, se sta bene, gioca. E quindi anche per me potrebbe essere veramente divertente la coppia Vucinic-Anelka. Ma tu ti sei fatto un'idea del motivo per cui Quagliarella e Matri siano finiti così in fondo nelle rotazioni? Quagliarella è stato offerto a tutti, però ovviamente quando sai che una società vuole comunque disfarsi di un giocatore, gli altri hanno buon gioco nel tirare sul prezzo. Addirittura c'è stata questa risposta del Parma per Belfodil ai limiti del credibile, perché Belfodil oggi ha giocato una decina di, forte per me, che ha giocato molto una decina bravo di partite potenzialmente molto, esatto, da scoprire. Ti dicono dai Quagliarella più 13 milioni, quindi ne vale 20 quanto Balotelli. Ma perché la Juventus secondo te vuole disfarsi perché non ci è riuscita, di Matri e Quagliarella? Magari, cioè, non credo che voglia disfarsi, quanto probabilmente insomma credo che abbiano visto i limiti fra virgolette dei giocatori, cioè insomma loro, per loro Quagliarella è quello, per loro Matri è quello lì, Vucinic hanno dato un certo tipo di valutazione, Giovinco un altro, e quindi sono decisi a cambiare e probabilmente quindi a potenziare l'unico reparto che va bene ma non benissimo della Juventus. Sì. E onestamente insomma c'è una macchina da guerra la Juve, insomma sono molti e sono molto bravi tutti, e se vuoi cambiare qualcosa devi cambiarla lì, non credo che si possa cambiare da altre parti. No, ma era anche secondo me giusto non toccare in profondità un gruppo come questo, insomma. Sono convinto che anche lo stesso Drogba, operazione forse difficile, forse impossibile, forse nemmeno fino in fondo voluta, avrebbe comunque alterato in maniera profonda anche gli equilibri dello spogliatoio, le gerarchie, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe stato un po' più difficile da inserire nello spogliatoio della Juventus. Sicuramente l'operazione di Anelka è diversa e sicuramente meno invadente. Restando sulla Juventus, fatti della settimana, ci siamo divertiti parecchio con le dichiarazioni di Marotta, che poi sono costate la ben nota squalifica di un dirigente che io rispetto molto anche per la capacità di comportarsi e di misurare le parole. Qualche volta in questo momento di particolare stress non gli riesce, e allora sull'arbitro guida risentiamo quelle dichiarazioni e poi voglio il tuo pensiero. L'arbitro guida di Torre Annunziata, provincia di Napoli, probabilmente era in difficoltà. Questo è pesante però, perché? No, non è pesante, perché sono giovani, quindi una designazione così difficile, se la si dà a un arbitro della provincia di Napoli, diventa difficile proprio nel... No, simpatia, difficoltà, sono difficoltà. Quindi in tutto sommato... contesto anche la designazione, ma è una contestazione, ripeto, non c'è malafede, non c'è nulla. Ma insomma, nel 2013 siamo qui ancora a fare i discorsi sulla provenienza degli arbitri. Sì, secondo me si è espresso in modo sbagliato, nel senso che ha detto una sciocchezza. Si è sbagliato nel contestare la provenienza dell'arbitro, quanto probabilmente invece fosse forse anche giusto dire che la mancata esperienza enorme dell'arbitro poteva non essere adatta a questo tipo di partita, però insomma poteva evitarla. Sì, non c'è dubbio. Anche perché Marotta, insomma, è un dirigente di una tale esperienza, di una tale correttezza, che insomma nessuno si poteva aspettare una uscita non particolarmente felice, visto che noto per essere super corretto. Fabrizio, passiamo a un altro, a un'altra sponda, quella di quelli che rosicano di più. No? Dell'Inter. Dell'Inter e degli interisti. Io onestamente non riuscirei a non rosicare nel vedere il più grande talento italiano partire per l'Inghilterra e poi tornare sull'altra sponda del Naviglio a queste condizioni. Primo pensiero di ogni interista, anche se non lo vuole ammettere, è stato: adesso questo fa gol nel derby, viene ad esultare sotto la curva. Perché io non ci credo che non abbiano pensato questo. Alcuni lo confessano, altri no, ma non è un problema. Poi l'Inter, negli ultimi giorni del mercato, comunque ha recuperato terreno e ha fatto degli acquisti interessanti, direi. Sì, sono sicuro che gli interisti siano mediamente incazzati con questo trasferimento. Non tanto perché volessero loro Balotelli indietro, quanto perché se fosse andato a qualunque altra squadra sarebbe stato sicuramente meglio, perché se nel derby segna e va sotto la curva succede il pandemonio. D'altronde, devo dire la verità, purtroppo la storia dice che tanti giocatori dell'Inter sono andati al Milan e hanno fatto bene anche nell'altra sponda. Quindi in alcuni casi hanno fatto meglio o stra meglio, esatto, no? Pirlo, e quindi Pirlo su tutti, cioè non hanno nemmeno fortuna, se vogliamo, in questo senso. No, però alla fine vabbè, Kuzmanovic e poi questo Kovacic, ragazzo, Kovacic, dicono, devo dire la verità, non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio sul giocatore. Kuzmanovic lo conosco, è un buon giocatore, è una buona operazione perché andava a scadenza, quindi non hanno speso quasi nulla per un giocatore molto interessante. Dubito che possano essere due perni del centrocampo di un Inter vincente. Sicuramente Kovacic può essere un giocatore su cui puntare e costruirlo, sì, nei prossimi 2-3 anni. È chiaro che fai un tipo di operazione diversa rispetto a quella che ha fatto il Milan, rispetto a quella che ha fatto la Juventus. Cioè investi su giocatori giovani. Hanno ceduto un giocatore giovane che è il Coutinho, su cui pensavo che puntassero fortemente, quindi evidentemente hanno cambiato il loro programma. E un Inter un po' minore. Un po' minore, però si è svecchiata, perché era molto indietro nel processo di... Sì, forse hanno rallentato questo processo di svecchiamento e allungato in 2 anni, cosa che probabilmente potevano fare molto più velocemente, molto più radicalmente, e forse i tifosi l'avrebbero accettato meglio. Sì, non c'è dubbio. Invece adesso sembra un po' tirare questa cosa qua. Secondo me i tifosi avevano bisogno di un colpo mediatico. Sì, avevano bisogno di un colpo mediatico, però comunque credo che possano essere soddisfatti. Poi ora è chiaro, vediamo sul campo se questo Kovacic mantiene le promesse ed è, come dicevamo, Ratti, un giocatore speciale, ed ecco quello che dice Boban, insomma, comunque è uno che dalle sue parti già era capitano, già era un giocatore pronto, quindi l'Inter aveva bisogno di una rinfrescata, se è vero che domenica con il Torino, insomma, alla fine Cambiasso e Zanetti sono stati ancora i migliori, quindi se Cambiasso e Zanetti sono i migliori dell'Inter, soprattutto nel secondo tempo, qualche problemino ce l'hai. Certo. No? Sì, sono convinto che sia a livello di settore giovanile hanno sempre tirato fuori negli ultimi anni giocatori giovani fortissimi, poi però vittime di scambi e secondo me a questo punto dovrebbero anche rischiare e buttarli dentro. Sì. Tutti convocati Magazine. Ma lo invitiamo per la vittoria e lo scudetto del Napoli, speriamo. Napoli sta andando forte, sarebbe una bella cosa. Maradona a Napoli dopo tanti anni con una vittoria del Napoli. Quest'anno, eh? cioè di quest- lo scudetto quest'anno. Di quest'anno, no, tra cinque. No, no, no, questo. Speriamo. Il pronostico del sindaco De Magistris. Caro mio Marco Belinazzo, che è sceso dal Sole 24 Ore, nostro amico, buongiorno. Ciao. Anzi, buonasera ormai. Ciao. Buonasera. Carlos, mi avete accolto come meglio non si poteva, insomma, io sono facendo gli scongiuri, non si può vedere, meno male che siamo in radio. Infatti io ho detto che i napoletani, dopo questa dichiarazione a Radio 24 ad Alessandro Milan, me li immaginavo nelle pose più strane. E credo che poi dire, è intervenuto però è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, ha detto no, Maradona non può tornare. Ma il problema non è che Maradona possa non possa tornare, Maradona può tornare tranquillamente, è che non può lavorare in Italia né, come dire, entrare in Italia portando con sé oggetti preziosi, orologi che costino sopra i 1000 euro, grosso modo, insomma, questo è il divieto. Se no, appena mette il magico sinistro giù dalla scaletta, arriva la Guardia di Finanza e lo spoglia. Inizia a sequestrare per recuperare questi 40 milioni. In realtà, poi lo scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, la vicenda è molto complessa, gli avvocati hanno detto che Maradona ha in qualche modo vinto la causa, l'Agenzia delle Entrate fa presente che non è così, anzi minaccia querele per tutelare la propria immagine. Di fatto è una vicenda lunga e tortuosa e che si lega semplicemente a una pratica che veniva usata all'epoca e che in qualche caso, diciamo così, viene usata anche oggi, che è quella di pagare i calciatori o gli atleti in parte attraverso i diritti d'immagine triangolati su società estere. In quel caso, in quegli anni, Corrado Ferlaino, che era il presidente del Napoli, utilizzava questa prassi per tutti i calciatori, ma lo facevano quasi tutte le squadre, e per la vicenda giudiziaria legata ad altri due importanti stranieri del Napoli, cioè Careca ed Alemão, si era arrivati in secondo grado a una soluzione, c'erano stati annullati questi atti di accertamento. Ora si dice, non poteva Maradona anche fare il ricorso? Non lo ha fatto perché Maradona non era più in Italia in quegli anni, quando è iniziata questa lunga lite, e di fatto non ha impugnato, e da qui la burocrazia fiscale ha fatto sì che si sia arrivati a questi 40 milioni con tutti gli interessi. Ora, cos'è successo ieri? Semplicemente che la Commissione Tributaria Centrale, che è un ente della giustizia tributaria che di fatto esiste ma non esiste, cioè è stato soppresso nel 96, ma si occupa di tutte le vecchie pendenze fiscali presentate 25 anni fa, un quarto di secolo fa, fino al primo aprile del 1996, quindi sì. Tutti i ricorsi, infatti questo ricorso era lì perso in qualche fascicolo, tra l'altro mi dicono che anche tutti i giudici sono ormai anziani perché non li sostituiscono, quindi deve essere un mondo kafkiano, e in cui si è semplicemente detto che quella sentenza grosso modo andava bene. Da qui l'avvocato di Maradona dice, siccome in quella sentenza che ho letto, quella della Commissione Tributaria Regionale del secondo grado, non c'era il ricorso di Maradona, ma si parla ampiamente della vicenda Maradona perché i casi erano simili, cioè le operazioni erano simili, e quindi per l'avvocato dovrebbero estendersi gli effetti favorevoli anche a Maradona. L'Agenzia delle Entrate invece non vuole che questo accada, ritiene che ogni storia sia personale, per cui si va avanti e si andrà avanti finché magari qualcuno andrà in Cassazione, ma in realtà ci si può andare per profili molto particolari, per cui Maradona continuerà ad avere questo debito con le entrate e vedremo se potrà tornare o meno a maggio, indipendentemente, ripeto, da questo debito fiscale, indipendentemente da qualsiasi evento sportivo che noi non nominiamo e non consideriamo plausibile, fino a che non si verifichi con assoluta certezza con giuridica. Con assoluta certezza giuridica, non passi in giudicato. Hai capito, Fabrizio? Bellissimo. Che storia meravigliosa. Bellissimo. Fantastico. Tutto quello che è legato a Maradona. Ma poi c'è tutta l'Italia dentro questa assolutamente. Storia. Dentro questa storia. Invece, Marco, spiega a me e all'avvocato Fabrizio Ferrari, che tra l'altro è procuratore e quindi lo saprà benissimo, spiega ai nostri ascoltatori l'operazione Balotelli. Beh, penso che... Il Milan ha fatto un affarone. Credo che dipenda tutto da Balotelli. Sì. Questo ma in questo caso voglio dire, dal punto di vista proprio economico, il Milan aveva fatto e ha fatto finora una grossa operazione di pulizia di bilanci, in particolare legata alla riduzione del monte ingaggi, che era indispensabile perché si partiva da un bilancio 2011 chiuso al 31 dicembre 2011 con meno 70 milioni. Per presentarti con una speranza più o meno fondata di superare l'esame del fair play finanziario, devi abbassare questa soglia. Il Milan ha fatto questa operazione nelle ultime edizioni del calciomercato. Con Balotelli si è fatto un altro sforzo, cioè quello di puntare sul futuro. Si è avuto un risparmio importante con la cessione di Kakà. Milan ha tentato di farne anche altre legate per esempio a Robinho, forse a Abate, Antonini, ma se ne è parlato molto. Alla fine queste operazioni non sono andate in porto. In ogni caso, tra il risparmio di ingaggio e il cartellino pagato dal Corinthians, in qualche modo appunto c'era un piccolo tesoretto che poteva essere forse utilizzato per abbattere ulteriormente il monte ingaggi e per ridurre il possibile deficit, insomma, del prossimo bilancio, ma si è preferito investire con un'operazione, insomma, finanziaria importante, 20 milioni però distribuiti, però vanno a bilancio su più 20 anni subito, no? Questi sì, anche se il pagamento, insomma, avverrà poi in più rate. Non ci sono qui diritti, obblighi di riscatto che creano soltanto confusione. Un ingaggio tutto sommato 4 milioni per un top player non mi sembra eccessivo, e quindi diciamo la possiamo promuovere non solo sportivamente ma anche finanziariamente. È chiaro, ripeto, dipenderà tutto da Balotelli, perché se metterà la testa a posto e in campo si dimostrerà un campione, dovrà dimostrarsi un campione anche fuori con i suoi agenti, non andando subito a chiedere un aumento di stipendio, sì. Perché semplicemente andare oltre questa soglia dei 4 milioni comincia a essere pericoloso poi per il bilancio, del Milan. Credo che quello sia veramente il massimo. Io credo poi che il segno dei tempi di questo calciomercato, ma penso siate d'accordo, è questa operazione che invece è stata fatta all'est, con l'acquisto di William per 35 milioni, che è passato dalla Shakhtar Donetsk all'Angers, la squadra di Eto'o, è un segno dei tempi. Insomma, il Milan ha dovuto pagare 20 milioni in comode rate da 4-5 anni e l'Angers è arrivato invece con un assegnino da 35 milioni, è andato dagli ucraini dello Shakhtar e ha comprato un giocatore, a mio avviso, secondo Fabrizio formidabile. Secondo Fabrizio Ferrari uno dei più forti d'Europa, eh? Ho visto la Champions League, ho visto molte partite quest'anno. Secondo me lo Shakhtar Donetsk, come giocava, e Willian soprattutto, era nettamente il talento migliore che ho visto. Questi arrivano a segno, altro che rate. Poche rate, una. Ma lavora subito con loro, no? Cosa perdi tempo? Hanno a fatto un'offerta qui, a un mio giocatore, ne parleremo l'anno prossimo. Vabbè, da qui all'anno prossimo. Può succedere di tutto, lo sappiamo. Te l'ho detto prima, possono ancora arrivare i Maya. Allora, prima della grana Montepaschi, restiamo per un attimo sul Napoli. Dacci, Fabrizio Ferrari, una valutazione del mercato del Napoli, se fa arrabbiare Marco Bellinazzo che va via. No, secondo me hanno fatto delle operazioni mirate, cioè hanno preso Armero, che insomma a cui facevano la corte ormai da 6-7 mesi. Era in ballo lui, è un mio giocatore, purtroppo, che era Sissoko alla fine è andato al Valencia, Armero è rimasto all'Udine, ma alla fine a gennaio ce l'hanno fatta. Hanno preso quindi due giocatori esterni a sinistra e due giocatori esterni a destra, che era esattamente quello che voleva Mazzarri. Hanno preso un difensore come Rolando, con una grandissima esperienza a livello internazionale, visto che fa le coppe col Porto ormai, credo, degli ultimi anni sempre, anche se questa stagione ha giocato molto poco perché era stato messo fuori squadra, aveva un po' litigato con l'allenatore, era un giocatore che sin da giugno scorso era sul mercato, e hanno preso soprattutto un giocatore che, se va bene, può sostituire Campagnaro, che insomma a scadenza credo che tutti sappiano abbia già concluso più o meno un accordo con un altro club. E poi hanno preso un ragazzo molto giovane che dicono essere di grandissima prospettiva. Sì, dopo il pacco Edu Vargas magari con questo gli riesce. Ma sai, Edu Vargas sicuramente non è stato un giocatore determinante per il Napoli, però vedrai che non sarà un pacco economico per il Napoli, perché questo intanto è andato al Gremio e sono in Libertadores. Se fa bene in Brasile, questi sono capaci di venderlo a 12-13 milioni, sì, e fanno pari e patta. No, però era arrivato con altre credenziali. Sicuramente soddisfatto, sì. Marco Bellinazzo, del mercato del tuo Napoli? Sì, abbastanza. Devo dire che mi sembra, per una volta, ecco, il club sia riuscito a non andare dietro a sirene o alla piazza che chiedeva grandi campioni, e soprattutto, a differenza di quello che è accaduto nel calciomercato invernale l'anno scorso, si hanno fatti interventi mirati con un obiettivo importante, al di là poi della possibilità concreta di raggiungerlo. Io credo che la Juve sia ancora un pelino sopra, però con questo mercato, soprattutto se i giocatori, insomma, renderanno quanto è immaginabile che rendano, si potrà, a mio avviso, insomma, competere sia in Europa League che in campionato in maniera, diciamo, molto promettente. Insomma, nello scudetto ci credi? Io sì, devo dire che ora, di là di, della scaramanzia di non pronunciare la parola, credo, ma lo dicevo già da un paio d'anni, insomma, è successo in Italia che i grandi club hanno dovuto rivedere i propri modelli di business, c'è stata una rivoluzione e il Napoli per fortuna si è trovata lì con 6 bilanci consecutivi chiusi in utile, l'ultimo con 14 milioni, e questi soldi più o meno sono stati usati per il mercato, e quindi diciamo, se non si vince adesso... Quando, se non si dice adesso, c'è la Juventus. Io credo che il prossimo mercato del Napoli possa essere molto divertente. Eh sì, perché va via Cavani? Arrivano una parte di soldi, credo anche di una vagonata di quattrini. Anche del Paris Saint-Germain. Piange un paio di giorni, poi gli passa. Sì, infatti, poi mi passerà. Piangerò oggettivamente. Prenderanno 5 giocatori con i soldi di Cavani. E guarda, credo che il nostro amico possa essere contento dopo qualche giorno. Guarda, Icardi, tanto per cominciare, che la trattativa è già avanzata, no? Beh, è un giocatore veramente incredibile, perché nessuno si poteva aspettare un'esplosione del genere. Incredibile. Chi ha avuto Maradona e ha perso Maradona, diciamo così, le altre nostalgie le può in qualche modo assorbire, metabolizzare. Ecco. Sì, sì, sì, sì. Tutti convocati Magazine. Sempre con me Fabrizio Ferrari, avvocato e procuratore, Marco Beninazzo da Sole 24 Ore, che tra poco ci porterà nel mistero Montepaschi. Però prima volevo farvi sentire una cosa, perché è una delle cose che a me divertono di più. Allora, i top degli ascoltatori. Sabato non intervenite, ascoltate basta, però durante la settimana, dal lunedì al venerdì, chiamate parecchio, siete bravissimi, ed è quello che voglio farvi sentire i due migliori della settimana, a cominciare da Antonio, proprio da Napoli. Io invece avevo chiamato per due questioni che volevo sottoporre a voi, a esperti e addetti ai lavori. Uno riguardava la Roma e uno il mio contributo anche su Mario Balotelli. La Roma, volevo sapere cosa pensate voi dell'eventualità che si dovrebbe creare in Italia, visto che le società di calcio sono società per azione che producono utili, riguardo all'esonero dei dirigenti. Mi spiego meglio: se Zeman dovesse essere esonerato, due minuti prima mi aspetto, se il calcio è gestito seriamente, anche le dimissioni di Franco Baldini, che ha gestito, secondo me, lascio a voi poi il giudizio, in maniera non pessima, tremenda, la gestione Montella, la gestione Luis Enrique, e oggi si scopre che ha sbagliato a prendere anche Zeman. Lascio a voi poi dopo il giudizio, questo è ovviamente strettamente mio personale. Su Balotelli l'uomo è forte, il calciatore è fortissimo, i dubbi sull'uomo Balotelli secondo me vanno sottoposti alla prova di Mario Balotelli con la maglia a strisce del Milan. Io da Napoli, tifoso del Napoli, se si regolarizza la cosa mi faccio anche l'abbonamento a Milan Channel. Non so se lo fai anche tu, Marco Berini. Va, guardo Sky magari, basta quello, senza Milan Channel. Sì, non esagererei. Sì. Ragazzi, sentite però il numero uno, Romolo da Milano. Siamo tutti felici dove lavoro io, perché abbiamo stimato che aumenterà il fatturato notevolmente quest'anno, perché con l'arrivo di Mario Balotelli ci porterà tanto lavoro. Io lavoro in una notissima concessionaria di macchine di un certo livello. Sì. noi abbiamo il sorriso a 47 denti da ieri sera. Sì, sì, sì. Ma anche in carrozzeria si lavora forte. Quindi abbiamo il posto di lavoro assicurato, sa, con i tempi che corrono. Hai capito? Beh, anche in molti locali milanesi, la movida milanese mi sa che abbiano festeggiato all'ufficializzazione. Sì, dai, non scadiamo sempre nei luoghi comuni, Balotelli, vedrai. È un ragazzo, è giusto che casa, si diverta. Casa, chiesa, PlayStation, e vabbè, e poi lascia stare. Esatto. Senti, Marco Verinazzo, Grana Montepaschi, esplosa, è ovviamente un caso nazionale. C'è il Siena Calcio, che è sponsorizzato dalla Montepaschi, soprattutto Siena Basket. C'è grande compenetrazione tra la banca e queste due realtà sportive cittadine. Adesso che succede? Beh, il marketing territoriale è stata una bandiera di MPS e il sostegno anche allo Sport di Vertice è stato garantito in tutti questi anni, permettendo al Siena Calcio di essere per molti anni in Serie A, insomma, in maniera assolutamente dignitosa, e al basket, sappiamo tutti, insomma, di aprire un ciclo vincente in Italia. Il finanziamento, il sostegno che MPS garantiva a queste due realtà in futuro non ci sarà più. Il finanziamento attraverso la sponsorizzazione al Siena Calcio di circa 8 milioni all'anno non ci sarà per il prossimo anno, mentre per quanto riguarda il basket, il budget di MPS, che MPS garantiva alla squadra di basket, era qualche anno fa di circa 20 milioni. Ora è sceso già a 15 milioni, è stato confermato fino al 2014, dopodiché si vedrà. E per il basket è molto più grave la situazione perché, come sappiamo, il modello di business delle società di pallacanestro è quasi integralmente legato alle sponsorizzazioni, visto che dai diritti TV non arriva quasi niente, dal botteghino, insomma, non tanto da giustificare un budget così importante. Quindi la prospettiva che vedo in entrambi i casi è di un forte ridimensionamento. Tra l'altro, negli ultimi mesi della gestione Mussari di MPS sono state fatte anche alcune operazioni di sostegno indiretto alle due squadre, ne abbiamo parlato sul Sole 24 Ore, e ho scoperto, insomma, leggendo i bilanci del Siena Calcio, che all'inizio del 2012 il Siena, come già avevano fatto in realtà a metà degli anni 2000 molti club, ha ceduto il proprio brand, il marchio, lo ha ceduto a una società, si chiama BV Communication. Questa società, attraverso le visure camerali, ho scoperto, insomma, che in realtà fa capo alla stessa famiglia Mezzaroma, sì, proprietaria del Siena, sì. E il finanziamento per acquisire questo brand è stato dato dal Monte dei Paschi. Ora, i marchi del Siena Calcio erano iscritti al bilancio a circa 15.000 euro e sono stati valorizzati per una montata di 25 milioni che il MPS, appunto, ha garantito con questo finanziamento, tra l'altro nel giro di pochi mesi all'inizio del 2012. Diciamo che l'operazione di cessione del marchio, ripeto, l'hanno fatto molte squadre, l'ha fatto l'Inter, l'ha fatto il Milan, l'ha fatto la Roma, è servito diciamo a metà degli anni 2000 per mettere a posto i conti, visto che scadevano gli effetti del salvacalcio, e alla fine si è riusciti in qualche modo a legalizzare queste operazioni con intervento di Covid e del fisco, con dei parametri, insomma, ci doveva essere una perizia giurata e comunque doveva essere garantita la redditività dell'operazione. Nel caso specifico, ovviamente, insomma, considerare il valore del brand del Siena Calcio pari a 25 milioni, insomma, mi è sembrato un po' esagerato. Mi sembra un po' tanta roba. Ragazzi, adesso però siamo quasi in chiusura e allora io direi di fare un salto in America. In perhaps the most unique Super Bowl matchup ever. Brother against brother. Add to that the pending retirement of Ray Lewis has set the stage for emotion and drama in New Orleans at Super Bowl 47. Questo è il promo ufficiale del più grande evento dell'anno negli Stati Uniti. Domani notte il Super Bowl. Lo guarderete, Marco Bellinazzo? Beh, magari lo registro, però lo guarderò. Io lo guardo in diretta. Tutto? Tutto. Grande Fabrizio. Sono appassionatissimo. Allora andiamo da Simone Sandri a New York per capire qual è l'aria. Simone, ciao! Buon pomeriggio. Come stai? Ciao Carlo. Io molto bene, tu? Come nasce questo Super Bowl? È un Super Bowl incredibilmente affascinante, come tutti i Super Bowl, perché ogni anno troviamo degli argomenti sempre nuovi, sempre comunque affascinanti per descrivere quello che è l'appuntamento sportivo dell'anno, non si nasconderselo. Quest'anno poi, come al solito, ci sono dei record battuti, che è quello degli spot televisivi che costano qualcosa come 4 milioni di dollari per ogni 30 secondi, per cui la CBS si è già garantita un bel bruttoletto. Alla faccia della crisi. Esatto, proprio questo è l'aspetto interessante, alla faccia della crisi, perché comunque ricordiamo che l'America sta uscendo da questa crisi, che non è ancora finita assolutamente, per cui stiamo parlando di numeri assolutamente incredibili, e per quello che è l'avvenimento che va al di là, è uno degli avvenimenti sportivi che va anche al di là proprio del trascende lo sport, appassiona tutti, compresi quelli che sono tiepidi nei confronti dello sport in generale, ma anche del football. Non a caso l'audience che si prevede, diciamo, mondiale si aggira sui 160 milioni di spettatori, un altro numero che fa abbastanza capire che tipo di interesse muove questo evento. Sì, e sul campo secondo te che succede? San Francisco o no? È forse un dissupero più difficile da prevedere. Ovviamente tutti parleranno di questo straordinario evento, che sono i due fratelli Harbo che si sfidano, sì. Ovviamente per la prima volta nella storia i due fratelli arrivano a giocarsi la finale del campionato NFL. Si sono già affrontati l'anno scorso in regular season, ma questa volta ovviamente c'è un interesse spaziale. Oggi hanno fatto una conferenza stampa, ieri hanno fatto la conferenza stampa insieme, ed è stato qualcosa veramente di unico, con anche il padre di questa coppia di fratelli, che ovviamente tutta America invidia, perché è un Super Bowl deciso in famiglia, qualcosa di assolutamente incredibile. Ci sono degli altri temi molto interessanti. Ray Lewis, uno dei più forti difensori della storia dell'NFL, che dopo 17 anni di onorata carriera nella NFL andrà in pensione, sarà la sua ultima partita per Baltimore, per cui c'è da questo da considerare. C'è da considerare questo giovane quarterback di San Francisco, Colin Kaepernick, che è un giocatore che si è conquistato il posto solo 8-9 settimane fa, e adesso è considerato uno dei giovani quarterback più solidi e più forti dell'NFL. È un Super Bowl, gli scommettitori lo considererebbero un pick me, cioè praticamente le quote sono simili per la vittoria di una squadra, da 1x2, se vogliamo usare. Da 1x2. Allora, chiudiamo con un giro di pronostici. Simone, secondo te chi vince? Io dico che vince Baltimore, per l'effetto anche dell'entusiasmo di Ray Lewis, di Ray Lewis che va in pensione, e anche forse credo che Colin Kaepernick pagherà un po' di emozione, anche se per adesso non l'ha fatto, però penso che alla fine vincerà Baltimore di poco. Secondo te, Fabrizio Ferrari? Vorrei che per lo spettacolo vincesse Kaepernick, quindi con i 49ers, ma credo che vincerà Baltimore con Joe Flacco. Siamo a due. Beh, io dico allora San Francisco. Lo dico anch'io, due pari. ecco. Simone, ti ringrazio. Grazie a te, Carlo. Abbiamo confuso ancora un po' di più gli ascoltatori. Allora, abbiamo detto un Super Bowl dove non c'è differenza, abbiamo fatto un pronostico. Guarda, confondere lor signori è la mia attività preferita. Ti dico la verità, lo confesso. Grazie Simone Sandri da New York. Io ringrazio anche Fabrizio Ferrari. Grazie a voi. Agente e procuratore e avvocato, e il mio amico Marco Berinazzo, al Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao a tutti, ci sentiamo. Beh, domani non perdetevi la coppia Gattuso-Ferentino, eh. E poi con tutti convocati lunedì. Speriamo che ci sia qualche bel casino arbitrale, così ci divertiamo. Ciao a tutti.